Quando è che si è trasferito qua ad Adora? Allora, da Adora sono andato via, come lo vediamo un po', nel 72, 73. Abbiamo cominciato a lavorare all'ospedale, mi hanno assunto all'ospedale nel settembre del 73. Ci sono qualche anno fa. No, non mi ricordo. L'inizio del mio lavoro all'ospedale. Sì. Il 15 settembre. 15 settembre 73. L'ora? Non so se vaga adesso. Ci sono anche dei rumori che magari le danno anche fastidio in questa città. No. Dei rumori che invece che vuoi spesso, cioè che gli piacciono. Ma quando sento la gente, i bambini che giocano, questo mi fa piacere perché c'è vita. E si comportano bene. La sente lei da dove abita a Campanelli Caduti? Sì, certo, io abito qui dietro, la sento. Mi piace come rumore. Bellissima. Lei in che zona di Lizzano abita? Abito a sud in via Labusa. Sai dov'è? Sì. Ecco, dalla chiesa c'è quella strada che va giù. Lui sa dove abita. Yes. Tess conosce tutti qui in zona, ci sta facendo strada. Un'ultima domanda che rientra verso scuola, cosa possiamo chiedere? Un'ultima cosa. Ma lei preferiva altro oppure magari le piace di più? No, beh, adesso io sono più a Lizzano per lavoro, non lavoro più perché ho la mia età, però io sono sempre attaccato al paese di Dro, infatti ci vado anche oggi pomeriggio perché ho dentro il pezzettino di campagna, per cui ecco, per lavoro. Ecco. Allora, arrivederci e grazie per il suo tempo.